pioggia non batte più sui balconi. E guarda un po', è appena uscito un raggio di sole. E quasi quasi chiudo gli occhi e penso a te. A te che sei le mie ragioni e i miei perché. E resto così guardando.